Ethno Chic, musica ad indicazione geografica protetta. Musica con indicazione geografica protegida. Musique avec indication géographique protégée. Music with a protected geographical indication. Buonasera su Ethno Chic. Buonasera a voi tutti e anche stasera musica e indicazione geografica protetta. E in questo caso ci muoveremo abbastanza, insomma, chiaramente non andremo proprio in tutto il mondo, ma diciamo che l'orientamento di questa etichetta discografica di cui parleremo stasera era un po' quello, quindi fare un'enciclopedia di suoni e di testimonianze delle culture e della diversità di tutto il mondo. Parliamo dell'etichetta nordamericana Folkways, ora Smithsonian's Folkways, dopo che nel 1988 appunto l'istituzione di Washington l'ha rilevata e la direzione è passata dal fondatore, che era questo signore Moses Ash, che appunto è scomparso 30 anni fa, alla direzione di Anthony Seeger, che ha voluto comunque mantenere questo l'orientamento, potremmo dire, no profit, e sicuramente anche con un fine appunto educativo, insomma didattico. In quanto cos'erano questi dischi? Erano i dischi che cercavano di non concentrarsi solo su un genere musicale, ma con una particolare attenzione alle tradizioni musicali, alle tradizioni popolari. Si occupava anche di jazz, di registrazioni del paesaggio sonoro, di testi di poesia, di testimonianze della vita sociale democratica e quindi anche delle, insomma, i problemi, quindi anche per esempio la canzone di protesta, insomma, di tutti questi anni. E la prima registrazione che abbiamo sentito è questo Good Night Erin di Addie LeBetter, che è più noto come Libelli, che è molto famoso per essere uno dei primi cantanti blues a aver registrato e aver venduto molte copie di dischi. E questo era un disco memoria, perché lui era morto nel 1949. Uno dei primi dischi che appunto la Folkways fece uscire fu proprio un disco omaggio alla sua memoria. Lui, che era stato scoperto proprio da Alan Lomax, il famoso ricercatore texano, in un penitenziario, ed era stato registrato, intervistato, registrato tutto il suo importantissimo repertorio. Poi aveva scritto appunto dei brani anche. Il successo fu postumo, fu di un altro gruppo, dei Weavers, un gruppo di cui faceva parte Pete Seeger, che poi andremo a sentire, che addirittura arrivò a, come dire, a avere un successo anche commerciale con questa canzone proprio l'anno dopo che uscì questo disco riepilogo della Folkways. E faremo un piccolo viaggio, insomma, in cui abbiamo dovuto limitare molto, perché comunque credo che ci siano le registrazioni che poi sono state riversate. Inizialmente erano tutti, uscivano su LP e poi sono state riversate dagli anni 80 in poi su CD, e soprattutto è possibile chiaramente tramite internet, insomma, recuperare questi brani insomma attraverso il download, eccetera. E soprattutto è importante che questi dischi avevano dei libretti molto ben curati, con delle note critiche, i testi, insomma, si cercava anche, appunto, c'era questo discorso educativo che ancora adesso è portato avanti. Infatti la Smithsonian Folkways fa molti seminari, laboratori, mette a disposizione sul suo sito molto materiale utile per, appunto, insegnare la musica attraverso l'utilizzo dei linguaggi tradizionali o la musica jazz, insomma. Materiale molto interessante che si può sicuramente utilizzare anche nelle nostre scuole, insomma. E noi comunque faremo un piccolo viaggio musicale attingendo, appunto, a questo immenso catalogo. E, appunto, un'attenzione particolare della folk è stata a tutte le minoranze, e non poteva mancare quella degli indiani americani, di cui andiamo a sentire adesso un esempio di danza, di canto notturno e danza dei Navajos. Ecco, questo poi è un esempio anche di come, insomma, il lavoro della Folkways era non solo di pubblicare materiale di gruppi musicali, ma soprattutto di fare della ricerca o finanziare delle ricerche sul campo di materiale che, come in questo caso, che sono delle registrazioni fatte da questo ricercatore Rhodes tra il 39 e il 52, e che sono state fatte nelle riserve indiane, insomma. Tra le varie tribù, insomma, quello che era rimasto. E sempre per restare al repertorio nordamericano, andiamo invece a quello di non proprio dei nativi, ma di derivazione europea, come può essere quello dei canti narrativi, delle ballate tradizionali. E qui abbiamo una registrazione, una delle prime registrazioni di Pete Seeger, che canta questa e che suona questa Jacaro dal vivo. Now, actually, the program tonight is pretty much what we make it. Something old, something new, something borrowed, and something blue, just like when you get married. I'm going to start off, I thought, though, with one of the old ballads, one with as many verses as I could think of. There was a wealthy merchant in London, he did dwell. He had a lovely daughter, the truth to you I'll tell. Oh, the truth to you I'll tell. Her sweethearts, they were plentiful, she courted day and night, until on Jackie Fraser she placed her heart's delight. Oh, she placed her heart's delight. Oh, daughter, dearest daughter, your body I'll confine, if none but Jack the Sailor can never suit your mind. Oh, can never suit your mind. This body you may prison, my heart you can't confine. There's none but Jackie Frazier shall have this heart of mine. Oh, she'll have this heart of mine. Her parents saw him coming, they flew in an angry way. They gave him 40 shillings to bear him far away. Oh, to bear him far away. He sailed across the ocean, across the deep blue sea, till safely he was landed in the wars of Germany. Oh, the wars of Germany. Now she went down to a tailor's shop, she dressed in men's array. She labored for the captain to bear her far away. Oh, to bear her far away. Before you step on board, sir, your name I'd like to know. She smiled all in her countenance, they call me Jackaro. Oh, they call me Jackaro. Your waist is far too slender, your fingers they are small. Your cheeks too red and rosy to face the cannonball. Oh, to face the cannonball. I know my waist is slender, my fingers they are small, my, but I would not change my countenance to see 10,000 fall. Oh, to see 10,000 fall. She sailed across the ocean, across the deep blue sea, till safely she was landed in the wars of Germany. Oh, the wars of Germany. She went out to the battlefield, she viewed it up and down. Among the dead and dying, her darling boy she found. Oh, her darling boy she found. She picked him up most tenderly, she carried him through the town. She sent for a physician to cure up all his wounds. Oh, to cure up all his wounds. This couple now are married, so well they do agree. This couple now are married, so why not you and me? Oh, so why not you and me? E questo era Pete Seeger, i suoi esordi, insomma, diciamo. E si sente proprio i racconti in queste musiche, le storie dietro. Sì, sì, questa è proprio una storia che poi, insomma, è tutto il repertorio della ballata e i canti narrativi che poi sono diffusi sia all'America del Nord che all'America del Sud, portate dagli immigranti che le hanno mantenuto, le hanno conservato e le hanno, insomma, sviluppato a volte. Sono più conosciute a volte nelle loro versioni là che non qua, ecco. Dicevi che poi puoi trovare qualcuno che canti così. Sì, adesso è difficile, cioè, per dire in Europa alcune storie, come vedevamo quando parlavamo della Katrina messicana, oppure la Delgadina che abbiamo sentito quando abbiamo parlato della musica in Mallorca. Per trovare queste musiche bisogna proprio andare, cercare, giocare sulla memoria. Sì. Mentre in Messico magari, insomma, sono conosciute, magari qualsiasi gruppo riprende. Suona, un po' un contenuto. È come la storia della Llorona, insomma, sono tutti brani che sono canzoni conosciute, insomma, proprio popolari nel senso più ampio del termine. E sempre per parlare di esordi, abbiamo detto che appunto c'erano molte registrazioni di testi e di poesia anche, insomma, soprattutto devo dire, vedendo un po' negli anni 50-60 c'è molto questa attenzione per questo. Ci sono poi anche molti dischi dedicati, che ne so, antologici, di antologie sulla danza nel mondo, oppure sul violino, insomma, si cercava, era sempre pensato un qualcosa che poteva essere anche utile per l'insegnamento, per la trasmissione di queste cose. E quindi anche la poesia faceva parte di questo e veniva dato lo spazio a poeti contemporanei, come questo disco che addirittura si chiamava Sei poeti di Montreal, in cui troviamo un poeta che poi è diventato un famoso cantautore, che è Leonard Cohen. E quindi vediamo tra questi poeti, sentiamo questa breve elegy di Leonard Cohen, che non aveva ancora iniziato a scrivere canzoni. Elegy. Do not look for him in brittle mountain streams. They are too cold for any god. And do not examine the angry rivers for shreds of his soft body, or turn the shore stones for his blood. but in the warm salt ocean he is descending through cliffs of slow green water, and the hovering colored fish kiss his snow-bruised body and build their secret nests in his fluttering winding sheet. In questa breve poesia, insomma, lui già accoglie alcuni aspetti, come dire, della sua tipo di scrittura un po' armonica, no? Con, sì, peccato che molto probabilmente non è la sua voce, l'accento notavamo che è un po', sì, sì, un ma po' proprio... Comunque insomma, le parole americana. Sono le però sue. Però le parole sono le sue. E comunque era una, insomma, come dire, per fare appunto una rassegna, ripetiamo, il materiale è veramente molto vasto, quindi... Abbiamo cercato di farvi sentire più cose possibile, poi potete andare a cercarli sul sito che è www.folkways.si.edu e sbizzarrirvi. I libretti si possono tutti scaricare in PDF gratuitamente, per cui insomma ci sono poi appunto molte lezioni in PDF che si possono su vari temi di musica, ci sono come dire, molto video, molto materiale, molti link, insomma è un sito sicuramente da così. Da, una bella ricerca se qualcuno ha bisogno. Sempre restando in ambito americano e sentiamo qua, andiamo un po' a vedere un po' anche dal punto di vista della music country e bluegrass, insomma, quello è un po' dell'America rurale. Sentiamo questi New Lost City Ramblers che appunto hanno contribuito molto a diffondere questo tipo di musica. The Story That the Crow Told Me. If you listen, I'll sing you a song. It's awful funny and it won't take long. All about a crow in a hickory tree. One little story that a crow told me. One little story that a crow told me. In a hickory tree. Me a suit of union underwear to keep me from the cold and the chilly air. 4 or 6 months without exaggeration, and I couldn't get it off 'cause I lost the combination. One little story that a crow told me in a hickory tree. Sick the other day, and the doctor said she's gonna pass away. I bought her a corset in the dry goods store. She's in better shape now than she was before. One little story that a crow told me in a hickory tree. Dressed in silk, she fell down and she strained her milk. My wife, she laughed and she thought it was a cinch to milk that cow with a monkey wrench. One little story that a crow told me in a hickory tree. And pull back the line, the fish won't bite in the winter time. I'm sitting on the ice till my feet got cold, watching the crawdad making his hole. One little story that a crow told me in a hickory tree. And we lost City Ramblers, e qui c'era Mike Seeger, fratello di Pete, di Peggy, insomma, di questa famosa famiglia di musicisti studiosi, quel capostipite è stato Charles Seeger e anche Anthony Seeger, è uno della famiglia. E poi c'era Tom Paley e John Cohen, che è stato uno dei più importanti gruppi, insomma, che faceva questo tipo di musica tra gli anni 50 e gli anni 60, è molto diffuso appunto a far conoscere al di là della vita proprio tradizionale campagna questo tipo di musica country e bluegrass, che poi insomma ha avuto anche esponenti insomma conosciutissimi, che poi è esplosa proprio negli anni 60. Però questi sono stati un po' i riferimenti agli inizi, insomma. E Un altro aspetto che viene curato dalla folk è la musica blues, il jazz, come abbiamo già visto. E tra le varie cantanti che ancora adesso è in attività, anche se molto anziana, c'è Barbara Dane, attivista per i diritti civili, insomma cantautrice, e qui la sentiamo con un brano che si chiama I'm on my way. Questa era I'm on my way di Barbara Dane. E qui siamo già un pochino già per il blues. Sì, siamo un pochino più avanti, siamo già negli anni 60, siamo già in periodo in cui appunto iniziano ad esserci la contestazione, le controculture, cose di cui poi la folk si occupa a largo spettro, registrando e pubblicando molti dischi, per esempio sotto l'etichetta Paredon, di cantautori sudamericani, piuttosto che non di registrazioni, oppure canti dei movimenti di liberazione contro il colonialismo, che appunto in quegli anni si andavano avanti. Si, ma noi facciamo un piccolo passo indietro, perché ci siamo occupati molto dell'area Stati Uniti, insomma, o comunque del Nord America in questa registrazione, giustamente, perché alla fine l'etichetta era nordamericana, e c'era anche insomma tanto materiale da raccogliere lì, ma non si occupa solo di quello. Abbiamo già visto in una puntata precedente come, per esempio, personaggi come Henry Cowell, questo compositore particolare, aveva fatto delle ricerche, si era interessato anche lui di musiche tradizionali andando a studiare a Berlino all'Istituto di Musicologia Comparata con Heinrich von Bostel, che è un po' il fondatore della disciplina che poi diventerà l'etnomusicologia. E appunto Eric Cowell si occupa di alcuni dischi che appunto trattano della musica del Mediterraneo e dell'Europa, e ne sentiamo due esempi. Uno l'abbiamo già sentito in realtà, che è un baile del Cambonero dal dischi di Folk Music of the Mediterranean, che è appunto un zabateado dei gitani del sud della Spagna, che poi finisce con una copla, con una strofa che richiama un po' anche un brano che poi è diventato la cui musica è poi alla base anche di una canzone del periodo della guerra civile, insomma, da parte repubblicana. E poi andremo a sentire invece altri brani di musiche dall'Ungheria, di registrazioni appunto, però di un altro personaggio. Ma intanto andiamo a ascoltare questo baile del Carbonero. Questo era questo baile del Carbonero, questo zapateado dei gitani del sud della Spagna, di questo disco che aveva curato Henry Cowell per la Folkways, anzi erano due LP in realtà, si chiamano Folk Music of the Mediterranean, che cercava un po' di far sentire la varietà di tutto di queste musiche nel Mediterraneo, e soprattutto cercare un filo comune, quasi un'origine, radice comune alle antiche, il periodo delle antiche civiltà del Mediterraneo, in cui poi e anche questo una ricerca, una registrazione. Sì, queste sono registrazioni, sì, che in realtà a questo disco c'erano registrazioni sue di Moses Ash, appunto il film fondatore, e di altre che aveva preso in giro. Quando questo non era possibile, però la Folkways riusciva sempre, era sempre riuscita a essere un riferimento un po' per tutto il mondo, per i più importanti etnomusicologi. In questo caso abbiamo delle registrazioni, forse una delle prime pubblicazioni che abbiamo a parte i dischi Patria che uscirono in Ungheria, insomma negli anni 30, però la prima pubblicazione al di fuori dell'Ungheria, direi, delle musiche registrate appunto in quel paese da Béla Bartók, appunto registrazioni sul campo, che vengono qui curate da Harry Cowell e anche dal figlio che era rimasto negli Stati Uniti, che era Peter Bartok, che è ancora vivo, insomma, ancora mi pare che sia in Florida e ha piccola casa editrice che cura delle riedizioni piuttosto curate del padre. Sia testi etnomusicologici, insomma, sia dischi, insomma, registrazioni poi delle composizioni. Allora, questi due brani li ho scelti tra quelli di questo disco perché sono molto importanti, perché sono registrazioni di la prima che sentiremo è proprio la registrazione di un brano dei suonatori di Duda, la zampogna ungherese, e i quali suonatori erano rimasti molto pochi all'epoca ed era uno strumento quindi in via di scomparsa. E Bartok ha avuto un'attenzione particolare, è stato tra i primi a poi a curare, anche scrivendo delle cose proprio sugli strumenti musicali, mentre allora si tendeva a privilegiare il canto popolare. Il secondo, un altro canto tradizionale, Rab Vagyok, che sarebbe "Io sono prigioniero, cerco la mia libertà". Aki dutas akar lenni, annak pokol bakkel menni, ott vannak a jó nagy kutyák, abból lesznek jó nagy dudák. Meddöglött a tárkálódám, kobolygó lett az én uram, de az uramot nem bánom, csak a ludamot sajnálom. Dalolta Furulyász és Dudálta Kós József, 39 éves Borsos Berényi Juha számadó. Én rob vagyok, rob vagyok, szabadulást várok. Tudja, hogy jó Isten, mikor szabadulok. Tudja, hogy jó Isten, mikor szabadulok. Láttam az urakat, 13-an voltak. Mind a 13-an rólam törvényt szabtak. Mind a 13-an rólam törvényt szabtak. Jelenyben terjesztik jó fekete könyvet, jobból kiszámlálják a rabbi életemet. Allora, due cose da dire su queste registrazioni. Intanto sono registrazioni che Bartok ha fatto prima degli anni 30, quindi sono registrazioni fatte col fonografo e col grammofono, quindi con un minutaggio di possibilità di registrazioni molto limitato, per questo sono molto corte. In realtà, magari, tipo per esempio il secondo brano erano diverse strofe, però non c'era proprio la possibilità materiale, lo spazio materiale per registrare. E alla fine poi si sentiva nella prima traccia, si sentiva un parlato, perché praticamente era cura del ricercatore che anche per un fatto poi dopo di riprendere e scrivere chi aveva cantato, c'era una specie di presentazione che insomma, musicisti, sì, ricercatori ungheresi in particolare, visto che fanno. Alla fine c'è una specie di presentazione, chi ha cantato si presenta e dice: io sono Tizio Caio, ho 8 anni e sono di quel paese, e così, e siamo nel 1925, ecco. E proseguiamo e facciamo un salto in avanti, sempre restiamo con registrazioni appunto non fatte direttamente da personaggi che lavoravano alla Folkways, ma elettromusicologi di altre parti del mondo. Arriviamo in Italia con le registrazioni che questa pubblicazione, registrazioni fatte da Roberto Leidi e Tullia Magrini a Creta, un disco che si chiama Vocal Music in Crete. Siamo già nel periodo Smithsonian, quindi siamo dopo il 1988, credo che siamo tra la fine degli anni 90 e il 2000. E qui sentiamo proprio l'ultima traccia di questo disco molto interessante, che appunto si chiama Vocal Music in Crete, e sono delle registrazioni 1979, dove sono dei brani tabaccagnotico, cioè di musica cretese con influenza turca, musica urbana, che qui viene suonata con i buzuki da Nikolaos Rimanolis, Kostas Papadakis Naftis, con l'accompagnamento di Stelios Lainakis. Nenemu e Filedem sono 2 brani. Oh, Portato un attimino in Brasile quest'ultimo pezzetto, perché sinceramente mi ricorda una musica brasiliana che non mi veniva, e il sertanejo, che ma qui siamo non molto piace, lontani però... sicuramente non c'è nessuno. Però sono delle forme di espressione, sì, probabilmente sono... Lomax, che aveva cercato di trovare nel suo canto Mexix, nella sua teoria, cercava appunto di trovare, come dire, attraverso alcune componenti, insomma, caratteristiche dei suoni, delle musiche di tutto il mondo, aveva l'ambizione di trovare un filo comune tra tutte le musiche del mondo, e effettivamente ci sono alcuni pezzi, modalità di espressione che, insomma, si possono ritrovare in tutte le società. E sempre stando più o meno negli anni 2000, un progetto molto grande, Silk Road, Via della Seta, in cui ci sono le registrazioni, le pubblicazioni, molti dischi dove ci sono di musica dell'Asia centrale, e qui in questo caso, insomma, abbiamo il Kronos Quartet con l'ensemble Alim Kasimov, che appunto registrano questo Meriban Olak per uno di questi dischi di questa serie, insomma, uscita nel 2002 in avanti, questo è il 2010. Questo brano dei Kronos Quartet con la Kasimov Ensemble, appunto, musica asa centrale, più che altro, insomma, un'unione tra musicisti colti, un quartetto dark, anche se sperimentale, insomma, canadesi, mi pare, loro sono canadesi, mi pare, i Kronos Quartet, insieme a questi musicisti asa centrale, questi accostamenti un po' post-ondata world music degli anni 90, che, insomma, a nostro pari lascia un po' il tempo che trova. Comunque non potevamo non farvelo sentire, perché ci sono diversi dischi, appunto, che più o meno hanno questa prospettiva nell'ultima produzione della Smithsonian Folk, insomma, soprattutto negli anni 2000, insomma. È più interessante invece questo spezzone inedito di questo compositore molto particolare, noto con il nome di Moondog, che appunto il suo vero nome era Louis Hardin, 1916-1999, un personaggio che appunto era noto per essere il vichingo della Sixth Avenue, perché lui stava appunto a suonare questi suoi strumenti, queste cose strane che faceva appunto per strada, suonando con una lunga barba, insomma, era cieco dall'età di 16 anni, però era... ha inventato molti strumenti, è stato considerato un importantissimo compositore tuttora, aveva meritori come Duke Ellington, Leonard Bernstein, insomma, ha registrato molte cose un po' anche per un'etichetta come la Columbia, insomma, è sicuramente un personaggio molto interessante che fa delle cose molto particolari, come sentiamo da questo inedito, insomma. Thank you. Con questo brano di Moondog passiamo per salutarvi, è un brano molto più melodico, sempre da un disco dedicato alla musica armena, di musicisti tradizionali, insomma, anche questo degli anni 2000, di questo Kurdili Isakslar Longa. Intanto vi lasciamo con questo brano, vi salutiamo e ci sentiamo il prossimo mercoledì qui su Etnoshika, Radio Città del Capo, 94.7, 96.250, per una puntata a cui avremo degli ospiti speciali. Sempre, quindi come sempre. Sì. Buonanotte Vladimiro. Buonanotte Azul. Ciao. Ciao.